Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Un saluto da Francesco Galante, ma il saluto lo voglio fare a Gianluca Codognato dell'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, che è con noi al telefono. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, un saluto ai radioascoltatori. E allora, con settembre si riparte con le scuole e quando si parla di scuole ci si accorge poi evidentemente che è un mercato ricco e fiorente. Proprio entrando in un supermercato adesso ci sono fior fior di banconi dedicati a quaderni, libri, penne, matite e chi più ne ha più ne metta. Parliamo di spese per la scuola. Sì Francesco, noi come ogni anno siamo andati a monitorare un po' di costi per le famiglie che dovranno iscrivere i propri figli alle scuole superiori ma anche alle medie e come ogni anno chiaramente rileviamo che a settembre per le famiglie il ritorno a scuola dei propri figli rappresenta sicuramente una stangata per il portafoglio e per il bilancio familiare. E noi appunto, come di consueto, abbiamo fatto delle simulazioni su alcune classi per quanto riguarda i libri di scuola e poi chiaramente abbiamo monitorato un po' anche i prezzi degli accessori e per arrivare a dire che insomma una famiglia per un singolo figlio che si deve iscrivere alle scuole medie o superiori soprattutto può arrivare a spendere anche 500 euro, ma stiamo parlando solo esclusivamente per i testi scolastici e gli accessori. Chiaramente poi siamo andati anche a guardare l'impegno di spesa per chi chiaramente deve mandare il proprio figlio in autobus perché magari deve raggiungere delle scuole lontane da dove si abita e allora chiaramente la stangata aumenta anche perché ci sono appunto gli abbonamenti per i mezzi pubblici. Insomma, diciamo che il ritorno a scuola come sempre rappresenta un sacrificio economico notevole per molte famiglie che come abbiamo detto appunto può arrivare sicuramente, si possono spendere per figli cifre che ruotano attorno ai 500 euro. Ecco Francesco, guardando un po' di scuole della provincia di Venezia abbiamo potuto vedere un po' di costi e sicuramente come sempre le famiglie che devono fare i sacrifici maggiori sono quelle che iscrivono il proprio figlio alla quarta ginnasio del liceo classico perché è al di là di un costo di base che si può aggirare attorno ai 300 euro e 350 euro per l'acquisto dei libri, ricordiamo che ci sono due vocabolari che hanno costi notevoli come quello di greco e di latino che possono arrivare a costare anche 90 o 100 euro l'uno, quindi si capisce che in un attimo si possono arrivare a spendere anche 500 euro. C'è da dire che però magari sul vocabolario uno può cercarlo anche usato se lo trova. Noi chiaramente suggeriamo di cercare il più possibile usati i vocabolari ma anche i libri di scuola ovviamente perché è l'unico modo per risparmiare, è l'unico modo per le famiglie per cercare di avere un po' di tregua e chiaramente chi iscrive il proprio figlio al primo anno sì, comunque negli altri anni può cercare di scambiare i libri usati, purtroppo molte scuole, anche se è diminuita questa consuetudine, e ogni anno magari cambiano delle edizioni di libri per i quali è impossibile quindi scambiarli o trovarli usati, per cui quando ci sono le nuove adozioni purtroppo bisogna acquistarle e troppe scuole richiedono appunto su un tot di libri un numero eccessivo di nuove adozioni quindi impedendo il possibile scambio. È chiaro che noi come associazione suggeriamo per quanto riguarda i test di scuola, come fanno moltissime famiglie, di cercare il più possibile di andare a comprare ai mercatini di libri usati, di cercare di fare gli scambi fuori da scuola, insomma è l'unico modo per risparmiare e per poter prendere un libro anche con il 50-60% di sconto. Chiaramente poi l'altro suggerimento riguarda gli accessori. Francesco, sappiamo che molto spesso i ragazzi puntano allo zaino, alla cartella, al diario, all'astuccio di marca, quello griffato, perché sennò si ha paura magari di essere presi in giro dai compagni di scuola, però ecco, quando si va a calcolare il costo per questo rientro a scuola bisogna pensare che uno zaino griffato può arrivare a costare 70-100 euro, mentre uno zaino dignitosissimo, bello, ma senza griff può costare 20 euro, quindi ci sono delle possibilità di risparmio enormi se non diciamo assecondiamo certi capricci dei nostri figli. Chiaramente poi quello è la famiglia che deve deciderlo, però ecco, quello che vogliamo dire è che il risparmio sia sui libri che sugli accessori è possibile quando si sta un po' attenti e si cerca oculatamente di affrontare questo tipo di spese. Quello che invece non si può, su cui non si può risparmiare è l'abbonamento dell'autobus o del mezzo, del treno, di quello che è, perché chiaramente là ci sono prezzi fissi. Noi come associazione abbiamo da sempre portato avanti una battaglia, speriamo prima o poi di vincerla, sull'abbonamento scolastico annuale. In questo caso ci riferiamo alla Venezia, ma supponiamo, anzi sappiamo che succede in tante altre realtà, che viene calcolato, purtroppo ha un buon prezzo rispetto all'abbonamento mensile, ma viene calcolato sui 12 mesi, quando noi sappiamo benissimo che in realtà gli studenti a scuola ci vanno sostanzialmente 9 mesi, perché 3 mesi esatto. Poi sono indigestivi. Ecco, quindi noi ci appelliamo, in questo caso al Comune di Venezia, ma comunque a tutti i comuni, affinché per l'abbonamento annuale si ragioni sulle 9 mensilità e non sulle 12. Certo, se poi questo abbonamento è per mandare a scuola i nostri ragazzi, dovrebbe veramente costare pochissimo, e ci dovrebbe magari essere una legge regionale, che sarebbe una cosa interessante, no? Sì, su questo mondo, sul mondo dell'istruzione, quindi anche che riguarda anche gli abbonamenti, a nostro giudizio dovrebbe comunque... dovrebbe esserci altri interventi. Ricordiamo che con il tempo sono stati anche fissati dei tetti di spesa sull'acquisto dei libri, quindi dei tetti massimi di spesa per comprare i libri imposti alle scuole, però si può fare ancora tanto, perché ad esempio mandare un proprio figlio alla scuola dell'obbligo, che è la scuola media, e chiedere i soldi per i libri ci sembra ad esempio una cosa ancora fuori luogo, perché almeno per la scuola dell'obbligo, come succede alle elementari, i libri dovrebbero essere gratuiti. Il rischio è che per alcune famiglie diventi veramente difficile mandare i propri figli magari alle scuole superiori, perché magari hanno più figli che devono entrare in prima classe, e allora le spese da affrontare sono notevoli, si può arrivare anche attorno ai 1000 euro. E il rischio vero è che alcune famiglie, speriamo siano veramente poche, non possano fare studiare il proprio figlio. Certo, interessante come sempre questo nostro approfondimento. Ricordo il sito dell'Adico, www.associazionedifesaconsumatori.it. Grazie a te Gianluca, ci ritroviamo tra qualche giorno. Grazie a te Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.